Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. San Bernardo, Terranova o Golden Retriever. Da oggi anche i cani di grossa taglia come loro potranno spostarsi sui treni ad alta velocità delle Ferrovie dello Stato. Nessun regolamento di condominio potrà più impedire ai proprietari di animali domestici di utilizzare le scale o l'ascensore, spostare in cortile o addirittura tenere in casa i loro pet. Museruola, guinzaglio, certificato di iscrizione all'anagrafe canina e libretto sanitario fanno parte del kit per il viaggio ad alta velocità. Da oggi saremo liberi di tenere in casa l'animale da compagnia che preferiamo. È stato fatto un grande passo in avanti nella legislazione che regola il giusto rapporto uomo-animali, sicuramente una grande conquista di civiltà di cui il Parlamento deve andare orgoglioso. È un grande regalo agli italiani, a quei 22 milioni di cittadini che vivono con un cane e con un gatto e lo considerano un membro della loro famiglia. Ma lo sentivo come un imperativo categorico che sorgeva dal profondo del cuore di dedicare una puntata ai nostri teneri, piccoli, pelosi amici a quattro zampe. Sono stato forse sconsiderato tempo fa e ricevetti numerose istanze di protesta, probabilmente anche una catena di mail contro di me, ma è giusto, me ne prendo tutte le responsabilità, perché osai dire a un ascoltatore vegano che mi chiamava che attendevo con ansia il gennaio per, non oso nemmeno ripeterlo, ma per farvi capire, per aspettare che i maialini teneri rosi si trasformassero in salsicce. Beh, oggi vorrei per questo riscattarmi e parlare dei piccoli animali domestici, anche perché il fenomeno è senz'altro importante e nella confusione, nella vacatio legis, nelle contraddizioni istituzionali che ci sono, almeno si muove qualcosa di positivo nei loro confronti. Avete visto, nei treni Italo si potranno portare dietro anche i nostri amici a quattro zampe di taglia grande. Quindi un grosso cagnolone, anche se probabilmente una giornata piovosa potrebbe emanare dei profumi che nelle narici delle persone non sufficientemente sensibili al diritto del cane di esprimersi anche in maniera olfattiva potranno sembrare fastidiosi. Ma è giusto che anche i cani abbiano il diritto ad alta velocità. Ci sono anche cose interessanti. Da qualche tempo i regolamenti condominiali hanno incluso una clausola che non può che aprire il cuore alla nostra gioia e al nostro desiderio di dare sempre più spazio ai nostri teneri amici pelosi a quattro zampe. Anche nei condomini nessuno potrà più protestare se ci sono cani che abbaiano, cani che vanno per corridoi, cani che entrano nell'ascensore. E poi c'è la vicenda straziante, stiamo seguendo con grande apprensione, delle nostre amiche gattare di Torre Argentina, che sono vessate, maltrattate, nessuno capisce la loro profonda funzione sociale. Hanno all'attivo la sterilizzazione non so di quante migliaia di gatti. Quanti gatti oggi sono stati sterilizzati grazie alle gattare? Anche organi di stampa internazionale parlano delle nostre gattare. Quindi è il caso probabilmente di parlare di questi animaletti. Allora, mi chiamo Dennis, ho sconfitto la solitudine adottando un cane. Da quando è morta la mia cagnetta che me l'hanno avvelenata da 9 anni, che ieri ha fatto 2 mesi, io non dormo più la notte, piango con mio marito e tutte le notti mi corrico alle 2 di notte lì seduta vicino la fotografia della mia cagnetta che la piango. Questa mattina non mi andava di restare solo in studio e volevo condividere la gioia di questa trasmissione con i miei amici più cari. Ho qui con me Ciappo, Lillo, Sgraffio, che sono i cuccioletti con cui divido la mia giornata, ma ci sono anche i gattini, c'è Pelosone, Baffino, ecco, mi stanno saltando addosso e non tengo la felicità. E poi ho anche pensato di farvi ascoltare la voce, elaborata naturalmente con un computer. Buono, fermo, non mi leccare adesso in questo momento. Lo so, ma non riescono a contenere la gioia, anche loro si sentono al centro dell'attenzione. C'ho anche un gattino che attraverso un software molto elaborato è riuscito a mandarvi il suo messaggio e questa mattina vi fa sentire cosa pensa di me, profondo estimatore, amante, frequentatore, compulsivo abbracciatore di micetti. Sono il tenero gattino di Gianluca Nicoletti. Questo occhietto me l'ha tolto un signore cattivo e poi mi ha buttato dentro un cassonetto. Gianluca Nicoletti mi ha salvato, mi ha portato a casa sua. Da quel momento mi tiene come se fosse un suo figlio. Vuole tanto bene ai gattini, Gianluca Nicoletti. Questo naturalmente lo potrete vedere sul profilo Facebook. Buono, buono, c'ho questi gattini che mi fanno il solletico. Vediamo l'ascoltatore, Vittor, primo ascoltatore. E sono circondato da questi animali, non riesco a contenere la gioia di lì vicino. Vittor, buongiorno. Sì, salve, buongiorno a tutti. Io vorrei tenere in casa, nel mio appartamento, un animale, una gallina. Perché questa discriminazione tra animali? Vorrei umanizzare questi animali, renderli come l'uomo, non più farli ma meglio dell'uomo, non come l'uomo, meglio dell'uomo. Molte volte gli animali sono meglio gli animali degli uomini. Sì, sì, meglio degli uomini, esatto. Creiamo delle cliniche di bellezza anche per questi animali. Ma vedrà, oggi avrà delle sorprese, ho dei signori che le racconteranno delle cose fantastiche che possono essere fatte ai nostri piccoli amici. Lei quindi vorrebbe una gallina, ma nessuno glielo impedisce. Una gallina, un maiale. Perché questi maiali che non vedono mai la luce del giorno, non riescono mai a essere a contatto con il sole, devono vivere in questi metri quadrati. Ma guardi, lei in questo momento sta sfondando porte aperte. Visto che il regolamento condominiale parla di animali da compagnia, Lei dovrebbe essere il primo in Italia, di questo gliene faremmo tutti veramente gloria e onore, a portarsi un maiale a casa. Vorrei vedere cosa possono dire. La mia compagnia, io trovo più gratificazione avere un maiale che non un cane, perché? Sì, anche perché poi il maiale a gennaio può trasformarsi anche in una simpatica maniera per rendere conviviale la sua giornata. Ma certo. La ringrazio Paolo, è stato molto... Vittorio, Paolo, sentiamo Paolo. Chiamate 800 24 00 24, stamattina veramente daremo voce a tutti gli italiani. Buono. No, c'è un attimo Fabrizio Intonti, se mi porta un attimo fuori l'appo che vuole fare i suoi bisognini, intanto andiamo avanti. Scusi Paolo, buongiorno. Buongiorno a lei, sono Paolo, chiamo da Caserta. Da dove chiama? Chiamo da Caserta. Caserta, sì. Allora, benvenga. Io ho avuto un cagnolino per circa 13 anni ed è morto di leishmaniosi. L'ho curato per 11 anni. Cosa triste. Anni. Di cosa è morto? Di? Di leishmaniosi. Cos'è, una malattia rara dei cani? Sì, è quella che i pappataci praticamente trasmettono con la... una zanzara. Ah, appunto, da una zanzara crudele. E sì. che sintomi dà questa malattia? I sintomi sono soggettivi, perché varia da un cane all'altro, sinceramente. Però soffre moltissimo. Beh, è un male interiore o anche, diciamo, dei sintomi fisici? No, sintomi fisici, sinceramente, aveva solo a pensare, vabbè, comunque la cura... No, lo so, mi rendo conto che... È durata 11 anni l'agonia? No, non è una questione di agonia. Se quando viene curato il cane riesce e reagisce bene alla terapia. Praticamente 11 anni di punture ogni 3 mesi, 60 punture in 30 giorni, mattina e sera. Poi a dieta, comunque il cane è stato benissimo, sono uno che ama gli animali, ama i cani. E quindi? Vorrei dire soltanto una cosa, quindi come l'ho detto all'inizio, siccome io vivo a Caserta, una bellissima cittadina, però dobbiamo fare lo slalom quando io con i bambini, mia moglie e qualche amico andiamo a fare una passeggiata per i marciapiedi. Lo so, però bisogna anche capire, non possiamo... pretendere dagli animali che abbiano i nostri stessi criteri. Giusto, poverino, se gli va di farle lì sul marciapiede... Uno non poi... è un discorso di animali. Sì, noi, non è noi, poi questa la fine del mondo. Persone civili o incivili che dovremmo tenere pulito. Quindi immaginiamoci... È colpa del padrone, non del cane. Sì, immaginiamoci quindi sulle scale degli appartamenti cosa succederà. Ma lei si portava quindi... il sacchetto per raccoglierla e portarla... No, io non ce l'ho più, purtroppo è morto, quindi non Ma ce non l'ho se ne più. Fa un altro, come fa a stare senza? No, perché praticamente ne abbiamo sofferto molto, quindi lasciamo perdere per il momento. Quindi qual è il consiglio? Di portarsi dietro quei bei sacchetti, io vedo molte amiche sì, di amici qualcuno, a quattro zampe. È l'uno su mille, anch'io l'ho visto a Caserta, uno su mille. Però non è una cosa, uno prende un sacchetto, la raccoglie tutta, poi anche se il cane è grosso, magari è mezzo chilo, ma non importa, se la mette nella borsa e la sera a casa la mette nel cassonetto. Il discorso, come risolveremo questa situazione? Anzi, mi farebbe piacere se qualcuno ascolta. Adesso vedremo se qualcuno ce l'ha i consigli. Laura, buongiorno. Laura. Buongiorno signor Nicoletti, io sono un amante sia dei cani che dei gatti, è facile tenere... per guinzaglio un cane, però un gatto no, il gatto non si porta a guinzaglio, si porta in un cestino. Il gatto va dove, poi il gatto è libero, è indipendente, va dove vuole. Il gatto è libero, sì. Sì, il gatto, se tu abiti come abito io col giardino, esce dalle finestre. Sono circondata dai micetti, ne ho 4-5. Volevo solo dire questo, io non posso più tenere gatti. Perché? perché i miei vicini ucciderebbero i gatti. Lo so, ci sono sempre dei vicini che tentano di ucciderli. Ci sono persone che riversano l'odio verso sugli animali, altri che non amano gli animali. Ma lei teme che le uccidano i gatti, quindi? No, io non li tengo più. Ma guarda, è l'ossessione di ogni... Noi gattare lo sappiamo bene. Ogni gattara vive in questo incubo, che la gente cattiva voglia uccidere i gatti. Voglio dirle questo: amare gli animali è un sentimento in più, è diverso come amare i figli, il marito. Però è anche meglio che amare molte volte gli umani. Poi ti danno delle emozioni diverse. Lo so, lo dica. E riempiono la nostra solitudine, la nostra vita. C'è una signora molto nota del cinema che di questo spesso parlò. Allora, avanti signora, diciamo, io le auguro di poter avere, di togliersi questo incubo che possono uccidere. No, non riesco, mi dispiace, mi hanno chiamato addirittura i carabinieri per andare a prendermi il gatto che era malato, ormai mi sono rassegnata. Ma perché i carabinieri, signora? Ma lo sa lei, sono venuti, ho atteso i carabinieri, finalmente sono andata a prendermi il gatto e dare le medicine. In ogni modo, ma perché, era arrestato il gatto, dov'era il gatto? Il gatto era andato nel giardino perché era freddo, era andato nel giardino vicino a prendersi il sole perché era... E lei ha chiamato i carabinieri per riprendersi il gatto. Ma è giusto, ci stanno per quello i carabinieri. Posso andare a prendermi il gatto? No, chiamo i carabinieri e sono venuti due volte. A questo punto... È giusto, con tutto quello che vorrei vedere, per cosa paghiamo le tasse? Ci sono situazioni che proprio... Perché devo far soffrire i miei gatti e soffrire io? Certo. Vado a fare la gattara e accudisco i gatti randagi. Lei fa la gattara, fa volontariato molto. Per i gatti randagi? Sì, molto, do da mangiare. Quanti ne tiene sotto la sua cura? 4-5, poi vado sempre a vederli che qui per il vero amano molto gli animali in Friuli. Ci sono tanti volontari. La zona pericolosa è quando si scende giù verso il Veneto, Vicenza, quella zona lì. Poi, sì, è vero, molto, molto. Invece qui hanno tutti un cane, hanno un'altra cultura. Vabbè, grazie signora, mi fa veramente tanto piacere raccogliere queste testimonianze. Come vedete, la mia intuizione non era sbagliata. Esiste un alto tasso di affettività, di amore, di altruismo, di dedizione, di desiderio di volontariato. Questa signora si occupa dei gattini randagi, regala parte del suo tempo per queste tenere creature. E questo mi sembra che le faccia onore. Raffaele Sogni, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Raffaele Sogni è un po' nomen omen, è il sogno di tutti noi che abbiamo un animale a quattro zampe carezzevole e peloso, perché è il coordinatore di una serie di riviste specializzate per animali delle edizioni Sprea, come ad esempio Argos, rivista di cani e gatti. Quindi lei è la persona che dà confezione ai sogni di tante gattare, di tanti animali, di tanti amanti degli animali. Ma sì, diciamo che le riviste che curiamo hanno l'ambizione di educare i proprietari di cani a una corretta gestione del loro animale compagno di vita quotidiano, quindi cane, gatto, poi per altre riviste anche altri animali. Ci sono molte persone che mi stanno scrivendo chiedendo come fare a rendere ancora più felice il loro compagno peloso a quattro zampe. Nelle sue riviste esiste una sezione di accessori di vestiario, di bellezza, per fare stare meglio e più felici i nostri animali? Ma allora, diciamo che il modo migliore per rendere felice il proprio animale è trattarlo da animale e non da bambino o essere umano. Sì, però lei capisce che quando uno c'ha vicino un cuccioletto così o un gattino così non resiste. È chiaro che farebbe qualunque cosa per lui. No, certo, però insomma arriviamo davvero a degli eccessi che rendono il cane... Vabbè, però sono compresi. Mi dica qualcuno di questi che lei definisce eccessi, io trovo delle giuste manifestazioni di amore verso un animale, ad esempio. Vabbè, diciamo che si arriva addirittura allo smalto per i cani, per esempio. O, smalto per le unghie per cani, in quanti colori? C'è la mia cagnetta Laika che subito sentendo questa cosa si è subito eccitata. Infatti sento, anche se credo che sia un'espressione un po' così, un po' artefatta. Comunque sì, ma dire, ci sono anche i passeggini per i cani. Ma lo smalto, lo smalto si applica come lo smalto delle signore a due zampe, la stessa cosa? mette oddio, io sinceramente non ne sono mai entrato in possesso, quindi è una cosa che semplicemente ho letto, non so, però sì, è uno smalto che è fatto per, con colori, credo, a tossici per cani. Naturalmente, che poi si leccano i cani. Perché sennò si lecca, esatto. Però esistono anche queste cose qua, cioè alterazioni anche dell'aspetto che soddisfano esclusivamente l'ego del padrone, perché il cane ovviamente non ha nessun interesse. Questa è una sua opinione, se ne rende responsabile, chiaro. Io penso che il cane sia contento alla fine di avere le unghie smaltate, se c'è un'offerta, evidentemente c'è una richiesta. Poi altre cose, lei parlava di tatuaggi. Il tatuaggio per cani esiste anche? Sì, diciamo che viene chiamato tatuaggio, in realtà non è proprio un'incisione con chi mai avrebbe il cuore di farlo? Oddio. Però comunque c'è una sorta di agografia, si rasa il cane oppure si va a disegnarlo sulle parti poco pelose con dei disegni che poi... Sulle parti intime del cane? No, non credo che... Oddio, poi si può fare dappertutto, però diciamo che io non pongo neanche limiti alla follia umana. Però sì, insomma, ci sono anche questi aspetti qua. Un tatuaggio al cane, diciamo è una scultura nel pelo che mostra dei disegni, delle guarnizioni, esatto. Così. Esatto, sì, purtroppo sì. Poi la vicenda dei passeggini per cane. Sì, ci sono i passeggini, c'è un fenomeno che adesso fortunatamente sta passando anche di moda, che si chiamano gli handbag dog, cioè cani molto piccoli che vengono portati nelle borsette delle signore. Sì, molte amiche mie le vedo con questi cagnolini piccolissimi, dei chihuahua, non so cosa sono, come Paris Hilton ha lanciato questa fantastica moda. Sono cagnolini tascabili, ma se uno ha bisogno di coccoli di cane e si trova in un posto dove un cane grossa taglia non può entrare, c'è il cagnolino dentro la borsa, come il cellulare. Questi cani sono molto viziati, ma soprattutto stando sempre fermi all'interno di appunto queste borsette perdono anche la capacità motoria. Quindi non esiste un piccolo tapis roulant per cane che uno possa poi anche fargli fare l'esercizio? Sarebbe, ma in realtà per cani proprio no, però si possono, ci sono anche filmati. Allora fermiamoci un attimo, rendo conto che questa interessantissima conversazione sta dando degli elementi fantastici ai nostri ascoltatori che continueranno a chiamare all'800240024. Ci fermiamo un attimo purtroppo per dare la linea alle informazioni della borsa, so che vorreste saperne di più. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Vivian, perdona l'attesa. Oh, Armand, sta tranquillo. Shampoo, maschera e manicure, ma per mezzogiorno deve essere pronta. Pranziamo con mia nipote a Luna. Certo, sarà perfetta. Lo so, tesoro, anche tu mi mancherai. Trattamela bene, niente smalto, ok? Certo, niente smalto. Oh, speriamo che mi metta il fiocco rosso. Mi sento tutta Barbie oggi. Bemini esce con Scooter. Ma un bel pedigree. Ti prego. Quanto amo questi film in cui cani e gatti prendono la parola e parlano e si esprimono. Potessero parlare i nostri amici animali, avremo molte cose da imparare. Mi stanno scrivendo moltissimi ascoltatori entusiasti, continuate a chiamare all'800240024 e mi chiedono i nomi esatti degli animali che ho qui in studio, ne ho veramente tanti. Me li sono segnati perché non me li ricordo bene tutti. Allora, i cani sono Pirlo, Gnacco, Fuffo, Sgrullo e Pirillo, che sono molto... Ecco, buono, Pirillo buono, che sono i cani. E buoni, mi saltano addosso e mi fanno il solletico. E poi vi dico anche... È impossibile. Sentiamo qualche ascoltatore, va. Alberto, buongiorno. Complimenti per la scelta dell'argomento della trasmissione. Sì, mi era saltato addosso Fuffo, mi toglie il fiato, è un po' grosso. Quando mette le zampe, non so se succede, ma lei, quando gli metto le zampe addosso, uno proprio perde il respiro. Io volevo solamente dire una cosa. Io con mia moglie abbiamo sempre avuto la passione animale. Da 4 anni abbiamo un bastardino preso in un rifugio, al quale per fortuna... Un meticcio, meglio dire, perché sì, offenderlo e chiamarlo, esatto, bastardino, poverino. 5 chili d'amore. Buone, ecco, 5 chili d'amore. E lei, sua moglie... Non avendo figli, è letteralmente tale quale se fosse un figlio. Le dico le gattine, Ciccia, Baffa e Pallina, e così almeno stanno contenti. siamo Prego. Riusciti, volevo mettere al corrente gli ascoltatori, magari non tutti sanno come non sapevo io veramente, che è possibile riuscire a salvare la vita quando hanno problemi cardiaci addirittura con l'impianto di un pacemaker, cosa che io non sapevo se non quando ci siamo resi conto che era l'unico modo per salvare la vita, visto che... Il suo cane ha un pacemaker? Sì, ha un pacemaker, che sono tra l'altro pacemaker umani, tale quale quelli che... Vorrei vedere, il cuore è lo stesso. Persone di fabbricazione americana ed è l'unico metodo per salvare la vita nei casi di blocco atrioventricolare come è capitato a noi, quindi senza... Ma cosa hai fatto? Una rianimazione? Quando il cane ha avuto l'ictus e si è sentito male? No, non ha avuto nessun ictus, semplicemente abbiamo notato un cambiamento del comportamento, era molto mogio, mangiava a fatica, insomma non stava bene, l'abbiamo portato al veterinario. Ma pensi l'avrei portato prima da uno psicologo, qualcuno per capire se hanno dei motivi, invece lei ha fatto bene, l'ha portato andato al punto. No, lui è sempre stato vispo e qualunque cambiamento di atteggiamento è da subito tenere... E adesso ha una vita, diciamo, normale, come prima. Sta tranquillo, è stato operato ad aprile, sta benissimo, ha avuto 3-4 giorni di degenza dal giovedì al sabato, dopo un mese c'è stato un controllo dove è stato risettato l'apparecchio, il pacemaker con dei valori diversi logicamente in base ai parametri. Ma deve stare attento durante la giornata a qualcosa? Assolutamente, fa una vita normalissima. Come non so, al check-in negli aeroporti, lo sì, dice lei? Ci hanno consigliato infatti di non esporlo nei metal detector, e tra l'altro ha un librettino dove c'è scritto esattamente che è portatore di questo pacemaker, per cui le radiazioni potrebbero dargli problemi, come le persone, né più né meno. Basta avere qualche... Senta, mi stanno scrivendo molti ascoltatori, c'è un problema che le persone hanno animali non capiscono, soprattutto nelle stagioni fredde, molto dice, ma cosa c'è di strano portarsi anche l'animale la sera a letto come fosse un bambino? Che c'è di male? Niente. A noi noi dorme sul letto, guai, lui si permette di non dormirci, cosa che fa l'estate perché ha caldo e quindi va sul mare, ma altrimenti dorme sempre sul letto in mezzo a noi, a me e mia moglie. E questo per far capire alle persone che pensano che l'animale assume delle fattezze e un rapporto che è identico a quello con gli esseri umani quando le persone vogliono lui bene, soprattutto questo cane che ha avuto dei problemi gravi di salute e tutto, cioè al pacemaker, immagino l'apprensione degli ascoltori. Grazie, Loris, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono il telefono da Scandicci, mi sembra una cosa un po' molto particolare. È un posto particolare Scandicci. Sì, perché c'ho una mia amica che è andata... C'era il mostro di Firenze, si ricorda? Sì, è vero. Era un bei tempo. Comunque niente, il problema è questo, questa mia amica è andata dal prete e lo voleva battezzare. Ma esiste una benedizione per gli animali, è la preghiera di Sant'Antonio Abate. Il giorno di Sant'Antonio si benedicono gli animali, non c'è nulla di strano. No, ma lei voleva battezzarlo. Battezzarlo col proprio nome. E come si chiamava il cane? Il cane Giulia. Come? Giulia. Giulia, beh, è un bel nome. Buonanotte, non ti battezzo. No, c'ho un cane, no, io ho una visione laica della gestione degli animali. Possono scegliere, loro a una certa età decidono, vogliono diventare cattolici, buddisti, pantagruelici, quello che vogliono, possono scegliere, è giusto che scelgano. E il sacerdote si è rifiutato di battezzare. Sì, assolutamente. E la sua amica come ha fatto? E niente, a questo punto vuol dire che sarà un cane laico. No, poveraccio, andrà all'inferno, quello è il problema. Va bene, Anna, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, allora ho 60 anni, chiamo da Bari, è da 30 anni che la mia vita è piena dei miei amici perfetti, tra l'altro il primo che è entrato nella mia vita mi ha aiutato a venire fuori da un periodo di depressione piuttosto pesante. Era depresso l'animale? No, ero io depressa e lui mi ha aiutato a venire fuori. L'è stato più vicino di qualsiasi altro uomo immaginabile? Guarda, Nicoletti, in maniera diversa, ma sì, forse è proprio così. E cos'era, un cagnolino? Allora era un cagnolino. E adesso? Adesso attualmente ho due gatti. E che fine ha fatto il cane che l'ha salvata? Il cagnolino aveva 17 anni quando l'ho perso per un brutto male. Ah, poverino. Sì, e comunque nel frattempo sono entrati i gatti nella mia vita e tra i tanti che si susseguono, perché ogni volta che ne perdo uno non riesco mai a... Però se mi ha chiesto come mai c'è questa ecatombe continua di animali, è per il naturale trascorrere della loro esistenza o perché... Lei adesso non voglio dire, ma ha qualche carenza di cura nei loro, cioè li espone magari ai vicini cattivi che li uccidono? No, assolutamente. I miei gatti sono curati, vaccinati. Purtroppo mi sono capitati due gatti che ho perso, uno con un cancro, un altro con un'altra brutta malattia. E comunque ho avuto la gioia di una gattina che ho trovato piccola piccola buttata in un cassonetto della spazzatura, una gattina tutta nera che ho preso. Ma pensi, anch'io quel gattino a sera prima anch'io l'ho salvato dal cassonetto, gli hanno tolto un occhio. Eh sì, questa l'ho chiamata Fortuna, è stata con me 17 anni, si è ammalata di diabete e pensi facevo l'insulina. L'insulina al gatto, lo so, vede che ci sono delle cose che sono poco conosciute. Il signore prima ha messo un pacemaker, questa signora fa l'insulina al suo gatto con il diabete. È una maniera anche per sentirsi buoni e occuparsi di qualcuno che ha bisogno di noi, penso, no? Certo, ma sono sempre loro che danno più a noi. Sempre loro. Grazie Anna. Cesare. Buongiorno. Salve Nicoletti. Dunque, noi abbiamo chiamato perché siamo un'azienda che lavora con i gatti, infatti in questo momento in ufficio abbiamo 5 gatti. Ma anche lei, pensi, io ne ho 7. Ciccia, baffa, pallina e... Però 5 sono in ufficio, che sono quelli che lavorano, e 5 invece si riposano a casa. Ecco, lei cosa produce la sua azienda in particolare? Noi produciamo gabinetti per gatti. Che mi sembra molti sul problema del gabinetto, che è un problema che si risolve facilmente, ci sono varie scuole di pensiero. Fate dei piccoli gabinettini fatti apposta per i gatti? Sì, questi sono delle lettiere che però hanno la particolarità di lavarsi e pulirsi da sole. La lettiera autolavante. Sì, perché ci sono persone anche delle volte che anziane, tutte così, che sono costrette per giorni e giorni a tenere la lettiera che il gatto ha usato. E è un problema per il povero gattino, che una volta che l'ha abituato a andare a avere pulita la sua lettiera, tenere quella lettiera sporca è brutto. Ma non esiste, diciamo, all'attenzione di chi progetta queste cose, un gabinetto più umanizzato per i gatti? Perché secondo me un animale, se educato, potrebbe usare benissimo una piccola tazzina come quella degli uomini. Ma in realtà no, perché il gatto ama scavare e coprire le feci. Se dovesse usare il WC come gli uomini avrebbe uno stress mentale, perché non ha la possibilità, soprattutto nel branco, di poter nascondere. Ma quindi per lui fa parte, diciamo, della sua natura giocosa. Va bene, ci sono altri accessori interessanti, ancora poco conosciuti, che voi producete per i nostri amici pelosi a quattro zampe? Ma c'è in programma adesso un nuovo accessorio, che adesso è più per i cani che per i gatti, che riesce a interpretare quello che loro dicono. E attraverso una specie di cellulare che è agganciato dentro il collare, praticamente l'avverte in quel momento se il cane... Come traduce l'abbaiare in linguaggio umano? E le dice il perché in quel momento sta abbaiando. Magari questo lei è molto non lo interessante. Vede, gli dice, non so se sta abbaiando perché c'è un ladro, perché ha visto un gatto, perché ha visto... Diciamo è un trasduttore di abbaio in segnali comprensibili. In questo momento lo stanno sperimentando, è un apparecchio che però arriva dall'ambito militare. Chiaro, diciamo che i militari fanno un uso di cani anche eroico a volte. I cani che portano esplosivo, mine che vanno oltre le linee nemiche e come kamikaze saltano, il loro eroico sacrificio a volte serve anche per risolvere delle situazioni importanti. Però anche l'industria bellica ha prodotto questo importante traduttore di linguaggio canino e linguaggio umano. Raffaele Sogni, ricordo, coordinatore delle riviste di animali nelle edizioni Sprea, come l'esempio Argos, che è una rivista per cani e gatti. Aveva mai sentito lei, direttore, parlare di questo meccanismo di collare che traduce il linguaggio dei cani? Sì, mi è arrivata una notizia di questo tipo, siamo in attesa di capire come funzionerà, fatto salvo che tendenzialmente una persona, un padrone di un cane che lo sente abbaiare, diciamo, quotidianamente, infatti quello che sto per dire, comprende, riesce a interpretare quelle che sono. C'è quel meraviglioso film della Pixar, Up, in cui c'era lo scienziato pazzo, lo scienziato profeta, che aveva trovato questo sistema per far parlare cani e gatti con il collare, il Doberman. Poi quando si rompe il collare cambia addirittura, gli veniva una vocina ridicola, che era il maschio alfa di tutto quell'allevamento. Ci fermiamo un attimo purtroppo per le informazioni del traffico, dico purtroppo perché sono tante le persone, dicono finalmente un'occasione per parlare con chi ci capisce. Buono, Pirillo e Sgruffo, fuori, scusate un attimo, dopo. Email melog@radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Giustamente, sei arrabbiato giustamente, Gnacco. Vai lì con Fuffo in quell'angolo. Buono. Scusate, è un attimo, i miei animali sono molto irritati che stanno leggendo gli SMS. Esiste una fetta di pubblico, devo dire detestabile, lasciatemelo dire questa volta veramente, quando si tratta di esseri indifesi come gli animali, che dicono e quasi vorrebbero sottintendere che c'è dell'ironia nelle mie parole. Nicoletti, perché prendi per il culo gli ascoltatori? Ma non lo sto facendo, sto dando finalmente voce a persone che non hanno mai voce, che nessuno le ascolta, su problemi, sono problemi importanti, problemi forti, volete mettere. E poi è bello vedere, in un momento in cui c'è un così profondo egoismo, ci sono delle categorie deboli completamente abbandonate, persone lasciate in questo periodo di tagli sole con la propria patologia, con la propria malattia, con la propria solitudine, con il proprio handicap, a vedere ci sono persone che si prodigano per altri esseri altrettanto bisognosi, la punturina d'insulina al gatto col diabete, perché gli ha dato troppi dolci probabilmente, sbagliando sì, ma poi rimedia, il cane con il pacemaker, il cagnolino educato che fa i suoi bisognini nel posto giusto, sono cose belle che riempiono il cuore di gioia. Eriberta Ross, buongiorno. Buongiorno. Eriberta Ross è una veterinaria, è una nostra ascoltatrice, ci ha mandato un messaggio via Facebook, fate parlare anche noi perché è importante, ma è giusto, se non ci foste voi, siete diciamo la nostra più profonda speranza quando uno dei nostri piccoli amici ha la tosse o è semplicemente un po' cupo. Io posso fare una domanda, dottoressa? Io ho visto molti ascoltatori che tendono a non considerare abbastanza l'aspetto depressivo negli animali, vedono un animale un po' mesto, un po' triste. Esiste nella vostra preparazione clinica anche la possibilità di curare la psiche del cane? Esiste lo psicofarmaco per cane, perché ci vorrebbe, o anche per gatto? E certo, esiste la possibilità di curare le patologie comportamentali. Si parla di patologie comportamentali più che di depressioni vere e proprie, perché spesso il motivo per cui i proprietari si rivolgono al medico veterinario lamentando delle problematiche sono legate più al comportamento dell'animale più che a un problema insito nell'animale, e molto spesso sono legate semplicemente a dei problemi che potrebbero essere risolti modificando il proprio comportamento come proprietario nei confronti proprio dell'animale. Cioè dovrebbe andare dallo psichiatra al proprietario e non pensare di mandarci l'animale. No, esiste una figura professionale che è il medico veterinario comportamentalista, ah. È una specialità diciamo relativamente recente e è importantissima come figura nel momento in cui ci sono delle problematiche come l'aggressività o l'ingestione totale, che non possono essere risolte semplicemente con un farmaco, ma hanno bisogno di una multidisciplina, quindi un approccio farmacologico a volte, ma molto spesso un approccio comportamentale nei confronti dell'animale, ma soprattutto nei confronti del proprietario. Lei ci fa riflettere, e ancor più ci farà riflettere quello che dice Elisabetta, un'ascoltatrice. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno dottor Nicoletti. Ascolti, ma un argomento non avete toccato questa mattina, ossia l'anima degli animali, perché ci sono, diciamo, in seno alla cristianità è sempre stato molto discusso il problema dell'anima degli animali. C'è stato un periodo in cui il dubbio era che ce l'avessero anche le donne, però parliamone, certo. No, non rispondo alla sua domanda provocatoria. Ascolti, però ci sono stati tutta una serie di santi, tra cui non so San Bernardo, San Giovanni Crisostomo, San Rocco con il cane, San Agostino, ma addirittura San Bernardo, stiamo parlando di San Bernardo, cioè un santo di serie A, che diceva che comunque gli animali hanno uno spirito e che grazie, diciamo, lo dico in parole molto banali, insomma, per farci capire, e che grazie a questo spirito comunque i padroni dei cani, dei gatti si ritroveranno appunto con i propri animali in cielo. Diciamo, non era proprio un'anima nella sua esatta composizione. Parlava di uno spirito. Era un coadiuvante dell'anima umana, diciamo, era una accezione ulteriore rispetto alla possibilità dell'uomo di condividere la grazia dell'assoluto. Se aveva un atto di tenerezza, un atto di comprensione, un atto di partecipazione per l'animale, ciò avrebbe giovato alla salvezza della sua anima. Elisabetta, che è una nota teologa, la ringrazio per questo contributo. Sentiamo Giuditta. Giuditta. Buongiorno. Sì. Allora, quello che volevo raccontare è successo a una mia amica. E lei viveva in una montagna, era sempre molto sola, molto, stava benissimo. Sì. E poi una volta un contadino ha ucciso un topo che aveva trovato in casa, no? Una topo, ma di quelli anche grossini, non quelli carini. Ah, la tipica sorcona, ecco. Non proprio, ma insomma, a un certo punto questa mia amica ha trovato la cucciolata. Dei topi? Di topi. Ah, ha allevato i piccoli topolini? Tip e tap e birillo. No, quelli lì sono criceti. Ah, erano criceti. Se poi si chiamano tip e chop e tip e tap sono quelli di tutti. Cioè, ma erano sorci o criceti? Faccia capire bene. Ratti. No, erano ratti. Ma niente, perché i ratti adesso i punk li portano in giro... Li allevano. Quindi la sua amica ha allevato questi topolini. Me li allattava con un biberoncino piccolino? Ma guardi, provava con un filamento di un fazzoletto, cioè con un angolo del fazzoletto in un latte, insomma ne sono sopravvissuti due, erano tanti. E questi topi qua avevano però una caratteristica, cioè sono cresciuti, sono stati anche bene, si comportavano come animali domestici sì. Però l'unica cosa è che avevano molto odore, si sente proprio un odore di topo incredibile, rosicchiato. Ma qual è l'odore del topo? Io non ho presente di cosa sappia il topo. Lo so, è infatti una cosa genetica, solo certe persone sentono l'odore del topo. Ma ci sono dei deodoranti intimi favolosi? È un odore veramente molto molto, per certe persone, fastidioso. E la sua amica però aveva cominciato a apprezzarlo e lo amava questo odore? Sì. E poi dopo è stata una cosa strana perché una femmina ha fatto degli altri topi. E chi l'ha fecondata? Si vede il fratello, oppure uno topo che è entrato. Beh, è stato un incestro fra topi, però comunque comprensibile. Allora questa mia amica si è ritrovata con un'altra cucciolata. E cosa ha fatto? Li ha allevati. E quanti topi ha la sua? Dopo un po' le sono arrivate un'altra cucciolata, tutte le femmine sono rimaste incinte. Perché i topi è una cosa smodata per come si riproducono. E poi ancora, insomma, in 9 anni ha una generazione. Ma dove tiene tutti questi topi la sua amica? Li tiene tutti in questa grande casa in montagna. È come Ratatouille, la cucina di Ratatouille, piena di topi ovunque. Beh sì, ma è bellissimo, tutti in montagna, questi topi. E lei... E come la chiamano la sua amica, lì nel paese? La topaia? No, nel paese la topara? No, non la conoscono. Lei non si fa mai vedere. Anche che non si potranno molto avvicinare, perché a forza di stare in mezzo ai topi saprà di topo in una maniera formidabile anche la sua amica. Il viaggio è stato molto interessante. Abbiamo iniziato con i cani e con i gatti e abbiamo finito con i topi. Avete visto? Buono, fermo. E naturalmente Ciccia, Baffa e Pallina hanno sentito parlare di topo e sono subito attizzate.